piccolina, la cara zievelina, in cambio di un inchino mi dava mezza lira. E allora me ne andavo di corsa sui bastioni, salivo su una giostra al dolce suon d'un organino, e sul cavallo a dondolo cantavo una canzone. Cin cin, che bello! Uè, uè, uè. Cin cin, che bello! Uè, uè, uè. Cin cin, che bello! Uè, uè, uè. Avanti in tre, che bel divertimento! Avanti in tre, la vita è una qua. Divenni più grandina e marinando a scuola al pubblico giardino conobbi un bel biondino. Avvenne che il mio cuore di colpo si incendiò. Di sera lui passava sotto la mia finestrella, vedeva il padre mio e sospirava allor così. Cin cin, che bello! Uè, uè, uè. Cin cin, che bello! Uè, uè, uè. Cin cin. Ma un giorno il bel biondino partì per far l'alpino, scriveva letterine. Amore, sto benone, che pacchia nel cortile del grande casermon. Chilometri e chilometri col 91 in spalla, e insieme al maresciallo ripetiamo una canzon. Cin cin, che bello! Uè, uè, uè. Cin cin, che bello! Uè, uè, uè. Cin cin, che bello! Da quando un bel mattino m'è nato un pupo biondo, io sono la mammina più tenera del mondo. Lui canta tutta notte, la ida il trovatore, ed io per non destare tutto quanto il casamento, mi prendo il pargoletto e gli improvviso una canzone. Cin cin, che bello! Uè, uè, uè. Cin cin.